E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo L'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa in diretta dagli studi di Milano di Radio 24, il nostro viaggio settimanale a cercare altre sfumature della nostra Unione Europea, del nostro continente. Un programma in collaborazione con Euronet, www.euronet.eu. Vi invito a guardare le pagine del network europeo, tanti dossier, tante notizie, tanta attualità da tanti punti di vista diversi, che è un po' la caratteristica di questo network. Le coordinate per interagire con noi e potete farlo via email l'altraeuropa@radio24.it se volete scriverci in diretta, oppure via Facebook e le nostre pagine ufficiali facebook.com/l'altraeuropa, che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti toccati. E a proposito di Facebook e di social network, oggi abbiamo preso un pezzo di palazzo da Bruxelles e l'abbiamo portato qua in studio, di questo palazzo, di questa Europa che sembra a volte così tanto lontana, così tanto difficile. Noi cerchiamo di trasferire un po' quello che è il sapore, quello che è il clima, quello che è lo spirito dell'Europa unita, però poi ci sono anche modalità nuove, modalità moderne, per fortuna, per fare interagire il palazzo con i cittadini. E con me oggi in studio c'è proprio la coordinatrice dei social network del Parlamento Europeo, è italianissima, e do il benvenuto a Raffaella De Marte. Ciao Raffaella. Grazie mille, ciao a tutti. Ciao Federico. Allora, social network ed Europa, avremo modo di parlarne in questa puntata, e dacci subito un assaggio però, cosa significa? Significa 150.000 fan sulla pagina Facebook del Parlamento, che è la più grande istituzione come presenza su Facebook dopo la Casa Bianca. Significa una sfida incredibile, quella di comunicare l'Europa in modo diverso e, diciamo, più vicino. Mm-hmm. E modo diverso e più vicino, tenteremo di capire come. E tu vivi a Bruxelles da quanto? Da più di 7 anni. Ah sì, quindi ormai sei una... belgizzata. E com'è da milanese belgizzata? Tu da là, dal tuo osservatorio, che è comunque un osservatorio privilegiato, che Europa vedi e vivi? Allora, non è un momento proprio di grandi entusiasmi per l'Europa, e lo sappiamo tutti, però comunque il progetto europeo, quando entri nei meccanismi e nella complessità di questa macchina enorme, rimane per me una cosa, diciamo, essenziale. Non vedo alternativa, per cui ci credo, e chiaramente spero anche di vedere un'Europa più forte, un'Europa più colorata. Per i vostri sms, se avete domande anche da fare in diretta, Raffaella De Marte, 349-238-6666. Raffaella, una curiosità, tu prendi la metropolitana in Belgio, a Bruxelles? Sì. Sì? Allora, vediamo un po' se hai mai ascoltato, per esempio, questa canzone. Les Flamandes dansent sans rien dire, au dimanche sonnant. Les Flamandes dansent sans rien dire, les Flamandes, ça n'est pas causant. Si elles dansent, c'est parce qu'elles ont 20 ans, et qu'à 20 ans, il faut se fiancer pour pouvoir se marier pour avoir des enfants. C'est ce que leur ont dit leurs parents. È un cantautore famoso, un cantautore belga, lo conosci? Famosissimo Jacques Brel, giusto? Questo è il suo nome, ed è stato bandito dalla musica che viene passata nella metropolitana belga. Insomma, lingua francese e lingua fiamminga, da sempre c'è questo contrasto. È uscito un articolo molto bello su Repubblica, significativo, insomma, della divisione di questa nazione. Tra l'altro festeggeranno, usiamo proprio la parola festeggeranno, perché è una festa, sarà tra pochissimo un anno senza governo, per capire quello che sta accadendo e soprattutto che musica si può ascoltare oggi nelle metropolitane del Belgio. Abbiamo convocato la nostra voce ufficiale, ormai un giornalista della televisione belga, un amico dell'Altra Europa. Diamo il benvenuto a Pierre Marlet. Ciao Pierre. E ciao Federico. Allora, spiegaci questa cosa della metropolitana, perché è molto significativa, vero? Sì, va bene spiegato che Jacques Brel è vero che è il più grande cantante in francese, e questo non è un'opinione belga, questo è un'opinione francese. È nato a Bruxelles, è partito a Parigi, e a Bruxelles c'è una stazione di metro che porta il suo nome, ma nella stazione di metro Jacques Brel, come in tutte le stazioni della città, non si può sentire canzoni di Jacques Brel, perché il francese, l'ha detto, è bandito. E questo l'ha deciso una commissione della Società degli Trasporti di Bruxelles, che diffusa la musica nelle stazioni. hanno ricevuto lamenti di alcuni nazionalisti fiamminghi. Questi cittadini sentavano qualche volta canzoni in francese, ma mancavano canzoni in fiamenco. Allora, per evitare problemi, la società dei trasporti ha deciso di proponere 70% di musica in inglese, 15 in spagnolo e 15 in italiano. Questo vuol dire che in una città a 90% francofona, Toto Cutugno va bene, ma il repertorio francese no. E il più incredibile per me in questa storia non sono i lamenti di qualcuno, preferisco non dare un nome a queste persone, di qualcuni persone, no, il più surrealista è che un servizio pubblico ha deciso di darle ragione, e questo per me è realmente incredibile. Allora adesso il Parlamento della regione di Bruxelles va a discutere del problema e vanno forse a fare una legge perché le persone che aspettano il treno possano sentire qualche parola del imparare francese. Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus. È sempre Jacques Brel. Adesso questo non è proprio un pezzo da metropolitana, credo, però insomma quello che sta succedendo in Belgio non è un attacco a questo artista, ma è proprio una scelta, non dare prevalenza alla musica fiammingo, alla musica in lingua francese. Quindi la scelta è stata proprio quella di bandire completamente e lasciare in metropolitana, nella playlist, solo pezzi di musica italiana, musica inglese, musica francese. E Pierre, anche la musica tedesca, vero, è stata vietata? Ah no, la musica tedesca no, ma devo dirti che la musica tedesca non si ascolta molto qui nel metro, allora non posso dire indicazioni a proposito di questo. Ascolta, ma alla fine, insomma, gli estremismi sono sempre, no, pericolosi, non si rasenta anche in questo caso uno strano estremismo? Sì, è vero che è un estremista linguistico che... Questo non è tanto grave, non è un problema di armi, di sì, non certo. Sono realmente una guerra, non è una guerra, ma realmente questo è molto significativo, che per queste persone, nazionalisti, hanno l'impressione che ascoltare francese non si può, perché 50% in fiammingo, 50% in francese, e nella musica normalmente la musica è qualcosa di un poco più universale, no? Abbastanza, sì, come tutte le arti, per fortuna. Pierre, cosa vi state preparando a questa festa, avere un anno senza governo? Ah sì, un anno senza governo sarà il 13 di giugno, allora sì. Non so ancora come andiamo a festeggiare questo compleanno un poco particolare, ma è vero che abbiamo votato un anno fa e discutiamo sempre della formazione di un governo senza trovare una soluzione. Allora adesso abbiamo un poco cambiato di metodo, discutiamo dei problemi sociali e economici, perché durante un anno abbiamo parlato soprattutto dei problemi istituzionali tipicamente belgi, di trasferimenti di competenze verso le regioni e tutto questo. Abbiamo adesso i responsabili hanno un poco paura della crisi europea e forse hanno anche un poco paura della reazione della popolazione, che ha l'impressione che il paese non va tanto male senza un governo. Allora, perché fare un governo nazionale, insomma, le cose funzionano. Devo dirti, Federico, che sì, il paese è realmente molto particolare, ma non si vive tanto male qui. Per esempio, oggi e domani, nelle strade di Bruxelles c'è un grande festival di jazz e, per fortuna, il jazz si canta solo in inglese. Perfetto. Ma oggi prenderai la metropolitana tu, Pierre, perché so che è Lady Gaga il pezzo più suonato in metro in Belgio in queste ore, sì. Quindi preparati, ok? E devo dirti che non mi piace tanto Lady Gaga, allora... Forse con l'iPhone sarà meglio. Ho capito. Ciao Pierre, grazie come sempre. Buon sabato e buone altre Europa anche a te. Alla prossima, ciao. Grazie ciao. Mille, ciao. Davanti a me Raffaella De Martin, studio. Lei è la coordinatrice dei social network del Parlamento Europeo. Vedo che sorridevi perché comunque è una quotidianità che anche tu sì, vivi a Bruxelles. Mi spiace molto non esserci alla Jazz Marathon, non me ne ero perduta una finora. E invece sei qua con noi. Raffaella, torniamo a Facebook, che di tutti i social network è quello più rappresentativo, una pagina con 150.000 fan, e quindi vuol dire che c'è comunque attenzione, c'è voglia di contatto con l'istituzione, e avete trovato forse il canale giusto per comunicare con i cittadini europei? Ma penso che sia uno dei canali giusti, non abbiamo l'arroganza di dire che è il canale unico e possibile, anche perché 150.000 su 500 milioni sono noccioline, però penso che il fatto di aver adottato questa comunicazione diversa, perché è molto meno istituzionale, molto più scherzosa, insomma la nostra regola è di non prendersi sul serio né a se stessi né agli altri, e a volte facciamo anche un po' arrabbiare i parlamentari che dicono ma perché questo tono, però l'altro nostro motto è meglio chiedere scusa che chiedere il permesso, per cui andiamo avanti diciamo camminando sulle uova e cercando di rappresentare questa Europa non solo come stelline, bandiere blu, insomma tutta questa retorica e questi toni molto seriosi e noiosi, ma cercando di essere un po' più vicini a quello che Facebook diciamo è per le persone nella vita quotidiana, anche certo. Uno strumento di intrattenimento, no? Sulle nostre pagine in Facebook, facebook.com/l'altra Europa, abbiamo già messo il link alle pagine del Parlamento Europeo, e non solo, abbiamo anche caricato un cartone animato, visto che ci sono tanti video, che una sorta di satira anche, dove si gioca un po' con i temi europei, come hai detto tu, anche con qualche sorriso, e a volte anche per trasmettere qualche informazione in maniera leggera. Assolutamente, cioè lo scopo è di affrontare temi complessi e difficili, come in questo caso per esempio quello del video è la governance economica, che è il principale pacchetto legislativo in discussione in questi tempi al Parlamento, perché si tratta di 6 proposte per rafforzare appunto il ruolo dell'Europa nella struttura di governo dell'economia europea, per cui anche tutta la questione delle sanzioni contro i paesi che sforano e compagnia in 60 secondi. Chiaramente la semplificazione è d'obbligo e chiaramente a volte suscita un po' di malcontento, perché ma non avete detto che, però in 60 secondi non si può. Però questo video appunto racconta il ruolo del Parlamento in questo pacchetto importante della governance economica e dà un po' addosso ai governi. Credo che sia insomma anche un ottimo strumento, ovviamente, per prendere il pubblico dei giovani cittadini, proprio di giovani e giovane Europa andiamo a parlare, perché è stato un po' il tema scelto questa settimana da Euronet. Ogni settimana un tema comune, questa settimana il focus era proprio su questa nuova generazione, cosa significa essere giovani europei, di una generazione che si sente comunque coinvolta nella vita civica, sociale, politica e anche culturale, lo abbiamo visto con le tante manifestazioni di queste settimane, quindi giovani che sono presenti, ed è stato proprio organizzato a Bruxelles il 25 maggio, un paio di giorni fa, un Connect Euronet, c'è stata la possibilità di confrontarsi con qualche parlamentare europeo, e per noi c'era Chiara Colassanti, studentessa di mediazione linguistica applicata a Perugia, ora è a Bruxelles dove sta facendo un sacco di cose, e infatti si è infilata anche in questo Connect Euronet. Ciao Chiara, ben ritrovata. Buongiorno a tutti, grazie. Sei il nostro occhio indiscreto lì a Bruxelles, no? Quando succede qualcosa dove coinvolgono i giovani, tu vai col tuo block notes e prendi appunti. Tra l'altro tu collabori a un progetto di una radio lì, giusto? Radio Jeans, sì, se non erro. Esattamente, sì, collaboro. Sono qui grazie a Radio Jeans, perché sono venuta per fare un internship con la European Youth Press Association, e intanto faccio parte del gruppo dei tutor che segue una classe di un liceo europeo a Mol, qui a un'ora e mezza di treno da Bruxelles, e abbiamo seguito questo gruppo di ragazzi che sta cercando di creare questa radio scolastica che rientra nel circuito di Radio Jeans. E ovviamente quando c'è qualcosa di interessante a livello giovanile e per i giovani qua a Bruxelles, mi infilo e mi intrufolo per andare a sentire cosa si dice. Ecco Chiara, una veloce fotografia, cosa è successo il 25 maggio, di cosa si parlava e cosa hai colto? Sì, il 25 c'è stato questo dibattito circa quelli che sono le possibilità di coinvolgere maggiormente i giovani nelle nuove generazioni nella vita civica, politica e pubblica dell'Unione Europea. C'erano dei ragazzi sia dalla Spagna che dalla Germania e dalla Romania che sono intervenuti con le loro domande, e quello che è stato più interessante è stato vedere come la parlamentare spagnola ad esempio si fosse un pochino bloccata su determinati punti di vista che andavano contro quelli che erano quelle che erano le domande della ragazza spagnola, ad esempio, perché c'era la volontà di riuscire a capire perché c'è questo gap tra quello che succede nel Parlamento, comunque nelle istituzioni parlamentari e europee in generale, non solo del Parlamento. Si è parlato anche dei media, di Facebook, di Twitter, di tutti quei social network attraverso i quali i giovani possono far sentire la loro voce, anche partendo da quello che sta succedendo in Spagna, in giro per tutta l'Europa, dopo tutto quello che è successo nel mondo arabo. Quindi insomma, siete usciti da questo incontro con speranza o con rassegnazione? Che sono sempre queste due parole che un po' accompagnano questi incontri. Sì, no, la speranza c'è comunque, perché ad esempio c'era il parlamentare lituano che invece ha dato particolare speranza a noi giovani, essendo anche stato un insegnante universitario in giro per l'Europa, è entrato a contatto con i giovani, quindi sapeva quali tasti andare a toccare, diciamo, parlando, e quindi c'è la speranza di riuscire a modificare parzialmente quello che è l'atteggiamento e il comportamento dei politici di adesso attraverso i media, nel senso che loro sono rimasti un pochino, come diceva lui, a quella che era la propaganda di qualche decennio fa. Invece adesso è tutto così veloce, è tutto così rapido che uno si deve adattare, quindi c'è bisogno di adattarsi da una parte e dall'altra, e c'è la speranza di riuscirci. Certo. Vedremo. Chiara, grazie come sempre, insomma, per essere stata lì per noi. Ci ritroveremo sicuramente in una delle prossime puntate dell'Altra Europa. Ciao e buon sabato. Grazie, ciao. E visto che parliamo di giovani, di speranze, di opportunità, vogliamo dare anche noi il nostro contributo, e lo facciamo proponendo un taglio, che è quello dell'industria culturale, insomma, questa parola cultura che può dare da mangiare in Europa, e lo facciamo insieme a un docente di economia della cultura, facoltà di arti, mercati e patrimoni della cultura dello IULM di Milano. Diamo il benvenuto al professor Pierluigi Sacco. Buongiorno professore. Buongiorno. Abbiamo colto una ricerca sulla credibilità e l'industria culturale che è stata realizzata qualche anno fa, però ci ha dato lo spunto per avere una fotografia di quello che può succedere in Europa, per invitarla e appunto sfruttare le sue competenze per fare un ragionamento in questa direzione. La cultura in Europa è un'opportunità? Lo è abbastanza? Lo può diventare? Qual è un po' lo stato della situazione? La cultura in Europa è, dal punto di vista economico, un'opportunità molto più di quanto comunemente si creda. In realtà, prima ancora della ricerca a cui facevamo ora riferimento, ce ne fu un'altra realizzata proprio dall'allora commissario alla cultura Jan Figel, che per la prima volta provò a misurare la dimensione economica dei settori culturali creativi in Europa. Eravamo alla fine del 2006 e la risposta sorprese tutti. Veniva fuori che nel complesso i settori culturali e creativi in Europa fatturavano il doppio dell'industria automobilistica ed erano uno dei settori più grandi dell'intera economia europea e soprattutto uno dei settori in maggiore crescita. Il punto è che se in alcuni paesi questi dati hanno fatto una notevolissima impressione, hanno portato anche molto rapidamente a delle azioni forti di politica economica, non soltanto culturale, in Italia devo dire questa informazione ha fatto molta fatica a passare, perché poi, tra l'altro, come sappiamo, in Italia si continua a discutere se la cultura possa o meno dare da mangiare alle persone. Come oggi in studio Raffaella De Marte, coordinatrice dei social network del Parlamento europeo, facebook.com/l'altra Europa, le nostre pagine ufficiali, oppure 349-238-6666 per i vostri sms. Spesso le istituzioni, ci scrive Elisa, sono distanti da noi cittadini, forse Facebook potrebbe essere la risposta giusta, ed è quello insomma che state cercando di fare. Ma stiamo parlando d'altro in questo momento. Con noi infatti c'è il professor Pierluigi Sacco, docente di economia della cultura. Con lui stiamo affrontando questo ragionamento: la cultura, l'industria culturale può essere un'opportunità per i giovani? Già il professore ci ha detto sì, e volevamo capire quali sono, professore, attualmente le nazioni più virtuose. A livello nazionale vediamo un grande impegno soprattutto da parte delle nazioni nel nord dell'Europa. I paesi scandinavi da questo punto di vista sono da tempo all'avanguardia, ma anche paesi come l'Olanda, lo stesso Regno Unito. Nel nuovo panorama dell'Europa si affacciano anche paesi piccoli ma estremamente dinamici e innovativi come l'Estonia. Va detto che ci sono poi anche, e questo è soprattutto il focus della ricerca di cui appunto parlavamo prima, sì, le regioni. E a livello regionale il quadro si fa ancora più interessante e complesso. Va detto che a livello regionale, per esempio in termini di numero di occupati dell'industria culturale, l'Italia non è messa malissimo, tanto che una regione come la Lombardia è addirittura terza nella classifica assoluta, subito dopo la Inner London, cioè la Londra centrale, e Parigi con l'Île-de-France, e abbiamo addirittura 4 regioni tra le prime 25, le altre essendo in questo caso il Lazio, il Piemonte e il Veneto. Il problema è che noi abbiamo storicamente, naturalmente, una grande tradizione di industria culturale, però facciamo molta fatica a percepirla come tale. Mm-hmm. E non a caso, quando andiamo a ragionare sulla dinamica, cioè sulle regioni dove l'occupazione culturale cresce di più, l'Italia praticamente scompare, e si affacciano invece 2 nuovi paesi che stanno veramente facendo passi da gigante a livello regionale in questo ambito, che sono l'Austria e la Spagna, che nella piena crisi economica in cui si trova ha comunque una serie di regioni, spesso addirittura che vengono da un passato di sottosviluppo e di povertà, come per esempio le Asturie, che stanno invece facendo grandissimi passi avanti in questa direzione. Insomma, è uno stimolo importante, credo. Professore, lei ha presentato un progetto ora al vaglio a Bruxelles. Quali sono in sintesi un po' le caratteristiche? Cosa ha elaborato? Noi stiamo ragionando proprio sul tema dell'occupabilità delle industrie culturali, perché è vero che, come abbiamo detto, in Europa c'è una grande attenzione verso questi temi, dove più dove meno, però sicuramente c'è, però ecco, appunto, va detto che fuori dal dominio della politica culturale, di alcuni aspetti della politica economica, anche a Bruxelles non è che tutti siano proprio completamente consapevoli di quelli che sono i vantaggi dello sviluppare l'industria culturale, soprattutto per le giovani generazioni. Allora, questo è un progetto che entra all'interno del circuito dei progetti Interreg globali, cioè quelli che coinvolgono tutti i paesi europei, che quindi raggruppa una serie importante di paesi europei sui temi dell'occupabilità. Questo non vuol dire soltanto acquisire posizioni di lavoro dipendente, ma è questo il punto che spero che anche in Italia nei prossimi anni venga preso molto sul serio, è il tema della nuova imprenditorialità giovanile in ambito creativo. L'Italia ha una grande posizione imprenditoriale, come sappiamo. Dobbiamo pensare quale può essere un campo nella quale emerga una nuova generazione di imprenditori, cioè non persone a loro volta appartenenti a famiglie imprenditoriali, ma che facciano nascere una nuova tradizione imprenditoriale. Io credo che il settore delle industrie culturali e creative è senza dubbio uno di quelli più promettenti. Perfetto, insomma, ci sembra davvero un ottimo stimolo. Il professor Pierluigi Sacco, docente di Economia della Cultura allo IULM di Milano. Grazie professore, buon sabato e buona Altra Europa. Grazie, arrivederci. Raffaella, tante proteste, tanta movimentazione giovanile in Europa, ma non solo, si parla di primavera araba in questi mesi. C'è stato un eco anche su Facebook, cioè sulle vostre pagine arriva o comunque diventano un riferimento anche per i giovani che vogliono comunque pubblicizzare, che vogliono mobilitare altri colleghi, altre nazioni, non solo all'interno dello stesso paese. Cioè siete un po' un imbuto dove queste cose arrivano o no? Vi vedono sempre come il palazzo e basta. Ebbene sì, devo dire con grande sorpresa da parte nostra siamo stati oggetto di mobilitazioni di massa. Prima di tutto dal Bahrain, non so perché, non me lo chiedete, ma sono arrivati centinaia e centinaia di messaggi dal Bahrain di richiesta di aiuto. Chiaramente le persone ci vedono come le istituzioni europee, perché la pagina è quella ufficiale, per cui si rivolgono ai parlamentari, si rivolgono alle istituzioni chiedendo aiuto, chiedendo attenzione rispetto alle vicende dei loro paesi, e noi abbiamo cercato di rispondere a questo appello interpellando i parlamentari responsabili di queste vicende della politica estera, e abbiamo alzato l'attenzione del Parlamento su questo caso del Bahrain. Invece da un paio di settimane combattiamo con i pro-Assad siriani, cioè una certa Syrian Electronic Army, che sì, non sappiamo quanto ufficiale sia il legame con l'esercito, ma insomma spamma regolarmente la pagina del Parlamento Europeo insieme a quella di altri media occidentali, il New York Times, Liberation, anche la pagina di Nicolas Sarkozy, con migliaia di post a favore: we love Bashar al-Assad, lasciateci in pace, non vi mischiate nei fatti nostri. È un caso abbastanza, diciamo, difficile da gestire, perché hanno una massa critica veramente impressionante. Noi la pagina Facebook del Parlamento la gestiamo in 2-3, per cui... quindi insomma state un po' subendo questa cosa, però vuol dire che ci siete, se si sono accorti di voi. Sì, sicuramente. Insomma, la potenzialità dei social network, i giovani la conoscono, la sfruttano. Stiamo parlando per esempio della manifestazione del 15M, no, che ha caratterizzato queste settimane spagnole, dei propri social network hanno dato il via a questa manifestazione. Ne abbiamo parlato la settimana scorsa, abbiamo scoperto come il tutto è iniziato e adesso andiamo a capire quello che sta accadendo. Sí, Felip Puig ha dicho que la actuación ha sido con vistas a la celebración por la hipotética victoria del Barça mañana. Además, ha dicho que la policía ha actuado con cautela y proporcionalidad y que solo ha sido contundente cuando ha sido necesario para garantizar la seguridad del operativo. Esta mañana... Questa era la piazza, ieri sera in diretta. Abbiamo preso l'audio da un GR. Le sembrava si fosse un po' placata, no, questo movimento, che dopo le elezioni si fosse un po' disperso. Invece qualcosa sta accadendo, e ancora, per capire cosa sta accadendo abbiamo invitato nuovamente il caporedattore esteri del Paese. Diamo il benvenuto a Jorge Marie Rodriga. Ciao Jorge. Buongiorno. Buongiorno a te, grazie ancora per aver accettato il nostro invito. Ieri è stata una giornata particolarmente calda nella piazza di Barcellona. Ci puoi un po' fotografare la situazione? Sì, certamente questo movimento sembrava un po' spento dopo le elezioni di domenica scorsa. Non c'erano più migliaia di persone in piazza, restavano poche centinaia. Infatti si stava parlando di trasformarla in un altro tipo di protesta. Invece ieri mattina a Barcellona, non a Madrid, a Barcellona, la polizia che dipende direttamente del governo catalano, non del governo spagnolo, ha cercato di sgomberare la piazza. I Mossos, giusto? Si chiamano Mossos? Sì, si chiamano Mossos de Squadra. Che sarebbero così come ragazzi di squadra, no? Ok. L'argomento era che oggi si gioca la finale della Champions League, e nel caso nel quale il Barcellona vincesse, forse potrebbero essere degli incidenti con le persone proprio in quella stessa piazza vogliono celebrare la vittoria della sua squadra. Allora la polizia è andata là, e ci sono stati degli scontri con i manifestanti, e alla fine 131 feriti, tra i quali 38 poliziotti, soprattutto un grande scandalo. E alla sera la gente è ritornata in piazza, e più gente di quella che c'era prima. Stiamo parlando con Jorge Marie Rodriga di cosa è rimasto di questo movimento del 15M, e lui è caporedattore esteri del Paese, quindi sta seguendo minuto per minuto, giorno per giorno, insomma, questa manifestazione che ha avuto degli echi importanti anche ad Atene, anche in Italia. Però insomma sono stati giorni molto particolari anche per tutto il mondo politico spagnolo. Jorge, cosa sta succedendo? Zapatero alle ore contate? Non sappiamo, perché ogni ora alle ore contate all'altra ora si rinforza in più. Il fatto che il Partito Socialista è sconvolto dalla sconfitta della domenica scorsa, una sconfitta storica nelle elezioni amministrative, fino al punto in cui alcuni leader regionali del partito hanno chiesto a Zapatero di andarsene. Lui ha disattivato questa mossa, diciamo, nominando un erede, che sarebbe il vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro dell'interno e vicepresidente del governo, e sicuramente questo finirà qui. Esta mattina diciamo la leadership del partito è riunita per studiare se questa nominazione va avanti o non va avanti. Tutto questo combinato con le proteste certamente hanno avuto una influenza su questa, non tanto nella partecipazione, ma diciamo, nel senso di malessere con il governo. Tante fette di salame, vero, nelle urne per Zapatero? Tantissime. Ci sono stati registrati 1 milione di voti in bianco nulli, e nei voti nulli c'è fette di salame, perché in spagnolo, in maniera colloquiale, ladro si dice salame. Quindi insomma era un messaggio molto diretto. E Jorge, anche se insomma siamo qui a parlare di cose importanti, di politica, in verità credo che oggi l'attenzione sia tutta per la finale di questa sera di Champions, o no? Sì, certamente qui la Spagna, come di solito, è spaccata su questa finale. È una delle cose buone dell'Unione Europea, perché 20 anni fa, se giocava una squadra spagnola, tutti gli spagnoli dovevano tifare per la squadra spagnola. Adesso ci sono tanti spagnoli che tifano per la squadra inglese, tutti quanti sono del Madrid, del Real Madrid, ma certamente tutto il mondo sta guardando la TV, mm-hmm. anche perché, diciamo, il modello Guardiola è un modello che è molto ammirato in Spagna, no? Okay. Il modello di umiltà, di lavoro, della maniera di fare le cose che ha questo direttore tecnico. Quindi, insomma, qualcosa che va al di là dello sport, ma certo, insomma diventa metafora di altro. Grazie davvero, Jorge, ci ritroveremo sicuramente qui all'Altra Europa in una delle prossime puntate. Buon sabato. Volentieri, buon sabato a voi. Ciao, ciao, ciao. Ale, vite sto pullman di Diefrixis. Vite sto sai www.willingeu.eu και ακολουθήστε τους φοιτητές από 16 πανεπιστήμια. Γνωρίστε μαζί τους τις νέες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις υποψήφιες προς ένταξη. Willpedia. Γνώση εν κινήσει. Ένα πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου. Un spot di un'iniziativa che si sta attuando, che sta avvenendo proprio in queste ore. Willingeu vuol dire andare in giro per l'Europa unita. È un pullman, che è partito il 23 maggio, dal 21 maggio al 21 giugno, un viaggio che durerà 30 giorni attraverso Italia, passando per l'Europa dell'Est, la Turchia, la Grecia, un modo proprio per toccare le strade dell'Unione Europea. Sono coinvolte tantissime università di diversi paesi e per ogni università sono stati selezionati un paio di partecipanti. Noi siamo in collegamento, credo si siano fermati in una sorta di area di sosta proprio per noi, con Lorenzo Piacenti, studente in economia all'Università di Tor Vergata di Roma. Ciao Lorenzo! Pronto? Eccolo lì, Lorenzo? Ce l'abbiamo? Aspetta che intanto proviamo a richiamarlo Lorenzo? Lorenzo? Pronto? Eccolo lì, ciao, scusa, sì. ciao. Eccoci. Ciao. Non siamo una fermata, un'area di sosta, bensì siamo in un luogo della Slovenia del Sud molto ventoso e dove il cellulare prende molto male, ma adesso siamo fermati qui, quindi dovresti sentirci. Forte e chiaro. Esatto. Ti sento benissimo. Siamo a Lubica. E siete partiti il 20? 21 maggio? Dico siamo bene? Partiti il progetto è partito il 20 maggio, però siamo partiti il 23 da Roma. Diciamo che è iniziato tutto a Roma, siamo stati 3 giorni lì e poi siamo partiti alla volta di Parma. Okay. Per poi uscire dall'Italia, pochi giorni fa siamo arrivati a Lubiana, qui in Slovenia. Lorenzo, cioè, l'idea è un po' quella della gita scolastica? Sì, praticamente sì, sembra di stare un po' in un campo scuola molto lungo, dove però sei un po' più indipendente e comunque anche un po' più la possibilità di apprezzare le cose che ti vengono spiegate, anche perché magari in campo scuola uno è ancora un po' giovane, diciamo, mm-hmm. per apprezzare questo tipo di cose. Comunque, è molto bello perché la gente è del luogo, quindi almeno una persona del luogo c'è sempre, comunque le città le vai a conoscere per quello che sono e non per una semplice gita turistica. E inoltre poi ci sono molte lezioni a tutte le università a cui andiamo, per cui un progetto molto interculturale volto a proprio a integrare le varie culture di questi paesi che stanno poi entrando adesso nell'Unione Europea, quindi abbiamo un forte evento di cambiamento in questi paesi, poi anche perché la guerra è finita relativamente da poco e si possono ancora vedere molti... Certo. Molti problematiche legate a questo. Insomma, mi sembra un ottimo punto di osservazione, perché una è la strada ed è bello, il pullman vuol dire proprio toccare la vita quotidiana di queste nazioni, poi fate anche queste lezioni, questi incontri universitari, quindi mi sembra davvero un'ottima prospettiva. E starete in viaggio fino a quando? Saremo in viaggio fino a quando arriveremo ad Atene, dovrebbe essere il 20 e 21 giugno, così staremo lì un paio di giorni per l'evento finale, poi anche perché questo progetto organizzato dall'EPLO, che è un'organizzazione di pubblicisti e giuristi di tutta Europa, ma principalmente è un'idea greca, e quindi Atene è un po' il centro nel quale si svolgerà l'evento più importante, quello finale. Perfetto. Lorenzo, quindi io mi prendo l'impegno, nelle prossime puntate magari ci colleghiamo nuovamente, così ci fai un po' la cronaca di quello che avete raccolto. Certo, può essere... Anche perché poi noi lo facciamo anche volta per volta in ogni città in cui andiamo, scriviamo, facciamo molte foto, facciamo video che saranno poi pubblicati sul sito. Perfetto. Può vederli chiunque. Va bene, allora ci ritroviamo sicuramente. Buon viaggio a te e a tutti i ragazzi che contestano compiendo questa bella iniziativa. Ciao, grazie. Ciao Lorenzo, ciao ciao. Grazie a te. Ciao. Ciao. E vabbè, insomma, anche questa è l'Europa che si può vedere via social network, come ci sta raccontando Raffaella, oppure da un pullman in strada. Raffaella, veramente una manciata di secondi per chiudere. Il social network è qualcosa di interattivo, quindi si può essere interattivi col Parlamento europeo passando per le pagine di Facebook? Assolutamente sì, lo scopo non è solo di diffondere notizie, ma anche di ascoltare i cittadini dell'Europa. E uno degli strumenti che ci sembra più interessanti da questo punto di vista è sicuramente le chat che organizziamo sulla pagina Facebook. Abbiamo appena sviluppato una nuova app che permette di dialogare in tempo reale con parlamentari importanti, insomma persone che hanno responsabilità. E loro sanno usarli, i parlamentari importanti, e Facebook. Gli diamo una mano. Dipende dal parlamentare, dipende dall'età, ma sicuramente li mettiamo nelle condizioni di ascoltare i cittadini. E martedì faremo una chat con la parlamentare responsabile della questione libica, per cui una questione abbastanza calda, diciamo, sì, e attuale, cocente. Non solo Facebook, ma anche Twitter. Sì, anche Twitter. Il vantaggio di Twitter rispetto a Facebook è che è in 22 lingue, e io gestisco il Twitter in italiano, che è www.twitter.com/europarl_it. Ok. E così potete anche scrivermi, io rispondo a tutti. Grazie Raffaella, tutti questi link nelle nostre pagine in Facebook dell'Altra Europa. Un grazie a Claudia Carusi che con me ha scritto la puntata, con la collaborazione di Margherita Ina, in assistenza a Giorgio De Luca e Margherita Frarelli, in regia Valeria Bernardi. Noi come sempre ci ritroviamo sabato prossimo. Ancora ciao da Federico Taddia.